Jesus, oh Jesus, confido in te. Parlaci ancora del Padre e dona il tuo pane. Jesus, oh Jesus, confido in te. Trasformalo in te. Oh Gesù, confido in te. Accogli la nostra preghiera, non manchi più il vino.